d'une organisation éthiopienne qui s'appelle le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien, le PRPE. C'est une organisation qui existe depuis 39 ans et donc qui a été créée en Éthiopie d'une façon clandestine parce qu'à l'époque, c'était le régime impérial. Ensuite, on a eu la dictature militaire. Faccio parte di un'organizzazione etiopica che si chiama il Partito Rivoluzionario del Popolo Etiope, un'organizzazione che esiste da 39 anni e che è stata creata in Etiopia in modo clandestino. All'epoca c'era il regime imperiale, poi c'è stato il regime della dittatura militare, la nostra organizzazione è sempre stata clandestina, un'organizzazione che comunque ha sempre contato numerosi membri. Durante la dittatura militare, nel corso del regime di Mengistu, sostenuto all'epoca dall'Unione Sovietica, c'è stata grande repressione, molte persone sono state uccise pubblicamente, altri sono passati sotto la tortura, molti sono dovuti andare in esilio. Io faccio parte di quelli che non possono ancora tornare nel paese, perché nel nostro paese non ci sono diritti democratici e non c'è possibilità di organizzarsi come si vuole. Sono tornata in patria nel 1993 perché c'era un cambiamento politico, anche se continuava un regime di tipo etnico. L'ho fatto per vedere come stavano andando le cose, perché ci si diceva che c'era la possibilità di una svolta democratica. Sono tornata dopo 22 anni di esilio per tornare dall'aeroporto direttamente in carcere. Sono stata imprigionata per 2 mesi e da lì non sono più potuta tornare. Utilizzo la mia storia per esprimere la storia di una generazione di militanti in Etiopia che non possono ritornare a casa loro. Questo accadeva negli anni 70, quando c'era un grande movimento a livello internazionale. Noi cantavamo Che Guevara, Ho Chi Minh, tutto quello che accadeva in quegli anni. Da quel momento lì in poi in Etiopia si è creato un movimento di tante persone che chiedevano un cambiamento. Il cambiamento in Etiopia, che deve tenere conto del fatto che la grande maggioranza della popolazione in Etiopia è rurale, vive in condizioni poverissime, c'è bisogno di un cambiamento delle condizioni di vita. Questo lo dico per introdurre quella che è la nostra lotta. Ça, c'est en guise d'introduction de ce que je représente notre combat. E una cosa a proposito di questa introduzione, voi avete detto di esservi trovati, siete all'opposizione adesso, lo eravate anche ai tempi di Mengistu, del regime militare di Mengistu, e mi dicevi che criticavate anche l'Etiopia quando era comunque un impero. Una monarchia. È curiosa questa cosa, ecco, come mai sono cambiati i regimi e voi vi siete sempre trovati all'opposizione? Cos'era che teneva insieme questi regimi che pure fra loro erano differenti in qualche modo? Bien sûr. D'abord, si tous ces régimes-là ne sont pas, ne nous tolèrent pas, c'est pas parce que nous, on ne veut pas participer. On a essayé. Le temps de Mengistu, dans les premières années de la Révolution, tout de suite après le chute de l'Empire, il y a eu de grandes manifestations en Éthiopie. Il y avait des manifestations. Prima di tutto, bisogna dire che se questi regimi non ci tollerano, non è perché non vogliamo partecipare. Abbiamo provato in tutti i modi. Subito dopo la caduta dell'impero, ci sono state grandi manifestazioni in Etiopia. Ci sono state manifestazioni addirittura di preti, ma degli studenti, delle studentesse, della gioventù, e noi abbiamo partecipato. Ma subito sono cominciate le stragi, i massacri, gli incarceramenti di massa. Da noi non è ancora possibile esistere, non è possibile per un'organizzazione con proprie idee, proprie opinioni fare attività liberamente. Anche per quanto riguarda il regime che è attualmente in vigore, abbiamo provato a partecipare alle conferenze di riconciliazione e abbiamo provato a proporre che tutte le opposizioni etiopiche possano ritornare nel paese e possano sopravvivere. Siamo andati, ma anche in questo caso ci sono state incarcerazioni di massa. Il fatto è che sia il regime di Mengistu, sia il regime attuale di Zenawi, che è un regime a base etnico, hanno paura della nostra formazione, perché la nostra formazione è organizzata su tutto il territorio. È stato il primo esperimento di una formazione organizzata in tutte le città, in tutte le campagne, un'organizzazione che metteva insieme giovani, donne, lavoratori e lavoratrici. C'è stata anche la guerriglia e dunque c'è paura di questa capacità di organizzazione, di questa storia. C'è tutta una generazione che continua ad aspettare di vedere per la nostra organizzazione uno statuto legale. Questo sarà possibile soltanto con un'organizzazione politica veramente aperta per tutti. Quello che abbiamo fatto di differente è che riteniamo che tutti gli oppositori debbano mettersi d'accordo. Noi siamo stati esclusi da tutto il periodo della transizione, ma bisogna includere tutti. E certamente nel futuro bisognerà avere la possibilità di organizzarsi per affrontare tutte le questioni che ci interessano. Dunque, se ci saranno elezioni, noi accetteremo i risultati delle elezioni, anche se non saranno a nostro favore. Questo è il vero problema per l'Etiopia. Tutte e tutti in Etiopia vivono un grande problema per la povertà, per la mancanza di educazione, per la mancanza di salute. Il problema etnico viene utilizzato per dividerci. Si utilizza la differenza fra regione e regione per dividere, ma gli interessi del popolo sono gli stessi e gli interessi comuni sono molto più forti delle ragioni per dividerci. Il regime attuale, così come quello precedente, ha distrutto l'associazione degli insegnanti, che aveva una lunga tradizione, ma anche tutte le associazioni dei lavoratori. Insomma, tutte le associazioni che rappresentano il popolo etiope e rappresentano gli interessi di tutti. E dunque la politica etnica non corrisponde alla nostra lotta. Noi abbiamo una visione nazionale e inclusiva. Noi vogliamo lavorare in maniera diversa, le donne, gli insegnanti, la gioventù hanno tutti gli interessi per lottare in comune. Mentre l'etnicismo serve soltanto a dividere. Questo è un problema in Africa, certo, ma anche in Europa e in tante altre regioni del mondo. L'etnicità viene fomentata ad arte, si fomenta l'odio l'uno nei confronti dell'altro in maniera tale da poter mantenere il potere per dividere gli altri. E questa è una cosa contro cui vogliamo combattere. Il nostro progetto è di investire nell'educazione, nella famiglia, in un progetto che terrà conto del futuro del paese, della lotta alla povertà, dello sviluppo. Tutti aspetti questi che toccano tutta la popolazione etiope. Ad esempio, la carestia non è un fenomeno legato semplicemente al clima o al Sahel che avanza, è anche e soprattutto un problema di investimenti, perché chiaramente se il paese investe nella guerra o c'è un alto tasso di corruzione, le cose vanno male. Attualmente il regime in Etiopia sta vendendo massicciamente le terre pubbliche. Queste terre sono vendute ai ricchi, a milionari, a imprese che vengono dall'India, dalla Cina, dagli Stati Uniti e si spostano le popolazioni. E dunque queste azioni politiche non sono nell'interesse del paese, ma sono legate alla corruzione. E ovviamente i soldi vengono investiti poi in altra maniera e vengono divisi fra un piccolo gruppo che si trova al potere e che è arrivato al potere sulla base delle divisioni etniche e non per portare avanti una politica inclusiva. Qui venons au pouvoir à travers des visions ethniques et non nationales et inclusives. Senti, hai insistito molto sul regime definito come un regime etnico, quello che è attualmente in vigore in Etiopia. Ci puoi spiegare brevemente come è organizzato, perché noi italiani, nella nostra ignoranza, pensiamo all'Etiopia anzi come un paese molto coeso, molto solido, privo di magari quelle discordie etniche che si possono ritrovare altrove in Africa. E tu invece ci stavi spiegando adesso che la situazione non è questa e che anzi c'è un regime che cerca di operare affinché le divisioni etniche siano rese pratiche, effettive e siano uno strumento di potere. Ecco, in che misura si sviluppa tutto questo? La federazione etnica che ha été mise en place in Etiopia ha été mise en place par le TPLF, Tigray People's Liberation Front, qui est une organisation du nord. Donc, il y a l'Érythrée, ensuite il y a le Tigray. C'est une population de 3 millions de personnes, ils sont minoritaires, mais en Nel nord venant au del paese è pouvoir, stata justement, messa in piedi ils una ont sorta di passé federazione etnica dal TPLF, che è un'organizzazione che raggruppa una popolazione di circa 3 milioni di persone. Quando sono arrivati al potere hanno rotto qualsiasi forma di coesione a livello nazionale. E dunque non ci volevano, perché noi siamo un'organizzazione che si definisce etiope. E dunque la minoranza che si trova al potere obbliga praticamente tutti ad organizzarsi in forma etnica. Per esempio, nel corso delle elezioni è stato chiesto a ognuno di definirsi in chiave etnica e se ci si diceva semplicemente etiope, quella persona non poteva partecipare alle elezioni. E dunque all'interno di ogni istituzione bisognava autodefinirsi in forma etnica. In un contesto del genere, il partito del popolo etiope ovviamente gli veniva negato qualsiasi tipo di spazio. Il nostro partito, dunque, che era ed è un'organizzazione nazionale, non poteva e non può partecipare a queste elezioni. È un sistema che è stato organizzato proprio per evitare che ci si trovasse di fronte a una voce unica ed unitaria. Andando indietro nel tempo, noi possiamo dire, per esempio, che abbiamo lottato e siamo stati partecipi all'interno del fronte di liberazione del Tigre. Ma il fronte di liberazione del Tigre stesso ci ha buttato fuori dal suo interno, come se loro non facessero parte dell'Etiopia, anche se poi essi stessi non volevano l'indipendenza, non volevano fare come l'Eritrea. Volevano comunque rimanere all'interno dello Stato etiopico. Dunque, operare una segregazione politica è un grave errore se si vuole riformare l'Etiopia, se si vuole operare un processo di decentralizzazione. Questo non può accadere su base etnica, ma deve avvenire su base geografica. Dunque c'è bisogno semplicemente di persone che si mettano insieme e lavorino per un obiettivo comune, ma questa federazione etnica che è stata imposta, questo progetto è stato fatto nell'interesse di un gruppo etnico ben specifico e sulla base di questo progetto gli altri gruppi etnici, chiamiamoli così, le altre regioni etniche comunque non sarebbero autonome o ancora più indipendenti dallo Stato centrale. Queste cosiddette regioni etniche non sono libere perché a capo di ogni regione etnica, chiamiamola così, c'è un membro, un rappresentante del partito attualmente al potere. Non esiste una vera struttura regionale o federale, dunque dello Stato etiopico, anzi questa struttura impedisce qualsiasi forma di autonomia. È un sistema che ovviamente facilita anche moltissimo la corruzione, perché quando arrivano investimenti dall'estero, il governo centrale indica con precisione dove questi investimenti debbano arrivare e dove no. Noi abbiamo un'enorme paura che questa situazione possa provocare enormi problemi all'Etiopia ed è nostro dovere far sì che l'Etiopia non diventi un nuovo Ruanda. Bisogna lottare contro questa politica etnica che alla lunga porta soltanto alla violenza e al sentimento di rivalsa e di vendetta. Quando noi parliamo, parliamo assolutamente a tutta quanta la popolazione del nostro paese e diciamo che si deve combattere questo regime, ma non si deve combattere il popolo che essi dicono di rappresentare. Ma questa è una bugia perché in Etiopia non ci sono mai state elezioni effettivamente libere. L'Etiopia rimane comunque un paese coeso, unito. E a dimostrazione di questo ci sono per esempio le grandi manifestazioni che si sono tenute nel corso delle elezioni del 2005, elezioni che nonostante tutto non sono andate nella direzione che il governo avrebbe voluto, anche se noi non eravamo direttamente presenti all'interno del gioco elettorale. Nel corso di quelle elezioni il partito al potere ha perso, questo significa che non c'è favore nei confronti della segregazione etnica e però proprio da quel momento la repressione è avanzata ed ha raggiunto livelli ancora più alti. La nostra organizzazione ha 39 anni di storia, non ha alcun diritto, però non ha alcuna possibilità legale, ma nonostante questo la lotta va avanti. Noi crediamo che ci sarà un giorno in cui chi è dovuto andare via potrà ritornare in Etiopia, ritorneranno gli esuli, quelli che sono dovuti fuggire. Allora a quel punto noi potremo costruire un nuovo paese. Le combat continue et nous croyons qu'il y aura un jour la possibilité pour nous et pour tous ceux qui sont en exil et qui ne peuvent pas rentrer de pouvoir être au pays et de pouvoir mener un combat dans toutes les régions d'Éthiopie ensemble. Ti volevo chiedere a proposito della repressione che tu dicevi che viene esercitata in Etiopia, c'è qualche forma di pressione internazionale sul regime di Zenawi da parte o di organizzazioni internazionali o di singoli stati, oppure questo non succede perché le relazioni che ha Zenawi sono forti, sono solide, quindi non si parla di quanto accade in Etiopia? Com'è la situazione da questo punto di vista? Okay, c'est une question très intéressante parce que, au point de vue du tiers-monde, vu du sud vers le nord, il y a des dictatures qui sont des dictateurs favoris, il y a des dictateurs qui sont honnis. Malheureusement pour l'Éthiopie, mais le Zenawi est un dictateur favori des États-Unis et de toute l'Europe parce que c'est Questa è un una régime. domanda molto interessante perché guardando dal nord verso il sud è evidente che ci sono dei dittatori favoriti. L'Etiopia è sicuramente una dittatura favorita dall'Europa e dagli Stati Uniti d'America perché è una dittatura che non tiene conto della sovranità nazionale del paese. È un paese che dice di essere impegnato nella lotta al terrorismo e questa lotta viene utilizzata ovviamente anche per reprimere l'opposizione nel nostro paese, ma è una lotta che porta anche a enormi errori, come per esempio l'intervento in Somalia. In Somalia l'Etiopia non si sarebbe mai dovuta impegnare. La Somalia è un paese che si trova vicino a noi, con cui l'Etiopia ha una storia e delle relazioni molto complicate, però per dare una mano agli americani, l'Etiopia è entrata in forze direttamente in Somalia. Tutto ciò per dire che il governo serve gli interessi di alcune potenze internazionali e tutte le politiche che vengono fatte al proprio interno, quindi la vendita di beni pubblici, delle materie prime, lo spostamento di centinaia, di migliaia di persone da un luogo all'altro dell'Etiopia, non sono fatte nell'interesse del popolo. Per queste ragioni, dunque, possiamo definire Zenawi come un dittatore favorito per quanto riguarda le potenze occidentali.